ce l'hai. Come bene danze, ergo dell'hai. Come bene single, desisto so shame. Come bene danze, nel zindo so fro. Come bene danze, erga e ce l'hai. Come bene danze, ergo dell'hai. Come bene single, desisto so shame. Come bene